sera. Si dato, dare 7 mesi di manzana mi sono uscito. Ti trovo come ti trovi giù, tutta la rimanna. E allora, io stamattina mi sono uscito dalle 6, manco 20. Sono entrato in bagno, mi sono cuccato, alle 7 ci sono abbecciurocci, troppo ghizzo. E mi sono dormito, me ne sono pensato all'onde, sì. E da voi gli all'altro che drommene. Da voi sei più da farato, felice, o felice altro. Ah, ma pare tu drommi troppo. E allora, tu gli mi ha mandato una foto con i cinesi, ma niente se ne vermicelli, vicini, che schifo. E pure i sorregisti, vici, pucci. E cara che te l'ha mandato? Giulio, a chi l'ha mandato un video che andavi a fatto 38 anni di matrimonio? L'ha mandato pure a te, mi pare. Ah, no, no. Non mi l'hai mandato a me. Tu hai mandato, lui ha mandato un altro filmino che c'era le magne di risori, che i cinesi così è. E me, bifini, minoretti, appena me, certo mi avvenno, chi ce l'ha avvenno, la me ogni volta, ti romando. Ebbene, lo firmo il dia a mangiarti i tuoi per ci mandare a te. Una schifo, dai, capito, a te lo mando, tutti ce la vai. Che schifo. No, no, non me ne mandare chissà cosa a me, no, no. La salsa la base, la rimanda a Dorre, due andare a me, non mi dici cose, non me ne mandare. Una schifo, ma non so questi che sono. Piatturini o cagnolini, tarroni, forse sono topolini, che schifo, vive tutto, se li mangiano col condimento, avanti. Aspetta, aspetta, te ne mando uno io, aspetta. Ehi. Beh, arrivi tu te. E la l'hai mandato. Adesso te l'ho mandato. No, non è arrivato nulla, ma su WhatsApp. Non c'è. Se lo scappo te l'ho mandato, aspetta, te lo torno a mandare. Se non premi il coso in via, non me lo mandi, non è arrivato. Aspetta, cupo, che faccio? Beh, Luca, arrivata a te una foto su WhatsApp. Luca! Vabbè, non mi arrivi tu, ma dove? Su WhatsApp? Su WhatsApp, non te l'ho mandata, guarda. Aspetta che te lo mando. Allora, dov'è Luca Flipper? Chiudo questi. Allora, aspetta. Allora. Qua il tuo telefono finisce 4201. Che è quello, aspetta, adesso te lo mando, non c'è qua, la via vista chissà Giommari, arrivato te la vista la vista, chissà sì, da un bel pure la via vista, aspetta te ne mando un'altra, allora, Luca, Luca, eccolo qua. Luca te l'ho inviato, guarda. A chi sei Luca? Guarda, quelli mangia Luca, figlio. E bisogna schifo. Ma cosa sono? Sono i ghitti, quelli, quello che ci ha mangiato quel ragazzo. Vabbè. Come ti mangiato? Una schifezza, no, Andi, ti mangi in bocca un elemento del genere, con chi ci ha bucato e si mangia. Pucci, ti ha mandato a Luca Flippe. Fritte non mi sono comandato un'altra, grazie. Mandala. A Luca glielo manda. Luca, te ne mando una un po' porcaccella. Adesso te la mando. Te l'ho mandata. Una tutto, una nebbigliata. Eia, ti arrivi tu. Ti aiuta lei. Ma lei che si alza il vento. Questo che mi ha mandato Gio Marino. Vabbè, a me pure me l'hanno mandato. Cazzo. Sennò io non abbaio mai di queste cose, capito? Però me l'hanno mandata la giudizio. Hai detto un attimo. Ma accorto eri che se mi metto che vado i suoi cappucci in capo. Ma noi avanno, sai che abbiamo fatto 38 anni. 38 anni di matrimonio, quella lì. È vecchio il filmino. Me l'avevi mandato da un me, me l'avevi mandato, infatti. Chi c'è il filmino? Me l'avevi mandato da un me. Papà me l'ha tornato a mandare. Ero burrugene la giuccia, dice, ma se non me l'ha visto Gian Maria, ero maletto lo mandato. Luca, c'era anche Luca, e me. Aspetta, là, c'è anche Gian Maria, là, mi attento che devo fare la luce. E chi c'è? Flipper per fregarti le spalle. Buffo, c'è. Con la spazzola d'acciaio. D'accordo. Cosa sei venni? Agliano ho entrato tre volte in bagno. Se non è chissà, passa la genovese che mi ha fatto, faccio mal di banza già. Ma che a volte mi la piaia, mi l'hai mandata la savuccia con i dolcini. Chi sa di me se tuo figliolo, tuo cugnato, tuo nulla? No, mio figliolo chi sarà? Era più minore. Donatella. Loredana era minore, dai. È il compleanno di Lorenza, l'avevo fatta chi di Piatto Rotondo. Ha chiamato un bello, Mari, ciao! Ha chiamato un bello, ha detto Maurizio, ma io non ce l'ho presente adesso. Forse che era la bimminore, E infatti la bimminore, ma Paola già se la mette, vero Paola? Sì, ciao Gio Mari, salutami a Lorenza, ha chiamato un bello, ora da me che sta divella, va, completo. Infatti. Il compleanno di Lorenza da poco settembre il 6 settembre aveva fatto il compleanno e l'avevo fatta chi di Piatto Rotondo in un ristorante, capito? Andiamo da Patrizia che la venne a badare dalla zona 1 al giorno più tardi di la zona e tu e io entrai rimane da io. La incucciata, però fate la soggiorno, Patrizia. Aspetta che mi sta chiamando da giù, da giù, dai. Ma tu dici che parli, un turno con due sue vantelle, già mi si entra essa. Che ne più tardi, faccio lo temere, nuovi. Aspetta che hanno suonato, grazie. Già so che non vi chiama quando entri. Patrizia, dai, aspetta, già sento un attimino, già retro subito. Mi saluti! Saluta la pasta, è nostra! Senz'altro, aspetta, si è ancora attende la cara, aspetta che te la bacio, aspetta un attimino, Patri vieni, vieni Patri, aspetta che... Vedi ti bu. Paoletta. Paola, è una rottura a semi. Ma cosa? Ma insomma, ma non vi devi andare a bada? Sì, che sto andando. Oh, sì, sì. Ma i nuovi, tutto a posto. I nuovi. Gli asici. Ma come se murati i patri, ora vi sa da rete, mi sto occupando, rimani, si sono tutti bisciati. Ci sono di rutturno. Ti andi due, tu non vedi. Chiamo Paola che c'è mia zia al telefono. Sì, va bene, ce l'ho, saluti a tutti. Beh, cosa che la chiama da un telefono, Paola. Ti saluta, va. Ehi, ha contraccambiato. Sta preparando la rovata qua. Cazzo, mi sono 12 volte che mi ha mandato il mio figlio, ragazzi. Bugna di 12 fotografie mi manda. È pieno, pieno, pieno, devi biondarlo tutto, sennò io mi macelli noi. Ma non mano che manda, che hanno la baita, ne ricorso, ne ricorso. E se no ti mandano il telefono con tutti questi fotografi. Mano che mi arrivi, me la baita la vuoi nel cancello. Il più, l'altro proprio quelli più belli. Ehi, dammi 5 minuti di cancello, dai, 5 minuti almeno, a me si è tolto il cancello, dai. Ehi, già so qua. Ah, vai, si è chiesta la visita, grazie. Aspetta, sto facendo la cosa, ci buttava la guardo. Aspetta, adesso che abbai i denti. Questa la già vista. No. Speranza, la speranza. Ehi, l'avevo già visto questo, me l'avevi già mandati. Oh, non mi lamentavo, dai. E anche paletta gliel'avevo fatta bene l'altra volta. Ehi, ha di un mal di banca allucinante, roba la macchina, ma non ne mangio più. Questa la genovese. Mamma mia, non mi piace più, da cazzo l'ho mangiato, non mi piace più. Era uno di loro che era sempre a Genova, è giunto, cazzo, ha cominciato a fare faccia la genovese, cazzo, mai giriato, ma... Io chiedo da me questa maniala, però oggi mi ha fatto a cusci. Perché voce, vedi, magari, perché voce magari ti fa niente, perché voce per fare il circuito, capito? E infatti, ma non ne va più, avanti, no, no. Però uno bruciando avanti che sta fischiando. Vediamo che di so i nuovi. Se vuoi entrare è la porta aperta. Ehi, chiama. Chiama la va. Dimmi. Il giovane è morto, rimane vicino a Goppu, però a fianco, c'è Mattonelli, dai, barato come se ruvo, ma tu sta Mattonelli lui, sì. È morto un giovane. 38 anni, avanti cognome non me ne ammetto come si chiama, a chi mi dà le faccio vedere, fatto. Non ho compreso niente, scusa perché mi stavano dicendo cosa. Ripeti, grazie a tu. È morto un giovane vicino dalla Marchiduia, 38 anni. D'infarto. Vicino a casa tua. A dire la prima parola che intendo. Che non c'ero oggi, non c'ero in casa, mi sono rientrato la natura, ero in campagna, tanto era in mano. No, non gioco, grazie. La prima parola che intendo. Riguardo. Era da Cibati, era nel funerale, rimane alle 4. Un giovane, 38 anni. E andata la vicina e l'automorso in terra. E l'automorso, morto, infarto, fulminante e abita in quella zona dove sei tu, boh, e che si casa a mattone come te i vostri. Sinceramente la primavera la intendo. Non lo so. Ma poi domando a Edda, vedi che si ha saputo qualche cosa. Ehi, arriva la sera e ha calato verso le 9:20 e ha visto un disgraziato buono in buca la macchina, si è incendiato buro Edda, ha cominciato a correre e si è trovato. Ha preso i tre bombini, ma non male quello che c'ha il calcetto qua, è andato con le sentore e l'hai sudata. Poi tu bocca di mai si incendia Burretto che c'è Marco e si è fuggito. È di carina la macchina? È di uno che sta di no, che lo gratta al cielo. Vedi così di vacca, stragando mai, cazzo, si è un po' paretto, ma forse ve l'ha fatto battipetto, boh, e che ne sa, può essere un dispetto qua, può essere, grazie. Chi cioè Mattesi, chi si guida, e allora sicuramente se ne hanno bucato luce, allora battipetto le incendendo la macchina, e ma di mai si incendia buru che su macco, cazzo, ha pigliato un po' con buru e... Ti ha giovici comincia a corrito, rendete un fuoco e se si è fuggito. Verso le 9:20 mi è successo. Ma non si deve aiutare il fuoco, in modo che chi ha la borsa ossa non abbia fatto più di chi si è fatto, capito? E c'è stato il regolamento dei conti, capito? Gente rispettosa, baccare dai, cazzo. E allora, penso che avrà chi su, ma avrà pensato un'altra pulca. Se cagate di sotto, se cagate, che si è visto tutta accesa, tutta la mano, tutta la felpa, il pittorra, il cappuccio, le braccia, tutto acceso, era. Un amaco. L'hanno dato una pulita, va via, la giudizio, da me giudizio la centina della centina, ha fatto boom, l'abbiamo fatta valla, e vedi a Burretti in mezzo, è rimasto così, ha cominciato a chiudere, a correre, per carità. E allora la parola del ricoverato? No, gli altri studenti, se porta a correre, fa fuggì, e se ne l'ha studiato, lo buco, compreso. Martire, per carità, ragazzi. Certo, non è andata bene tanto, Non credo che sia andata tanto bene, però, se il fuoco mi la dia in alto, qualche bruciatura ve l'ha fatta senz'altro. Penso di sì, la mano, le sopracciglia, era tutto allumato, dalla vista in su, ha cominciato a correre, si è sotto, ha rovinato la cella, ha rovinato, sicuramente l'abbiamo abbriccato il muretto che da dalla strada, e si è dileguato. Però, vedi, che sono campette, vivi, hanno visto la fiammata, sono giunti correndo con l'estintore, e venivano in sudata, e siamo andati, e giunti i bombieri, i battuti i carabinieri, stamani vedi la polizia, io c'è un regolamento di conti, di petti, uno con l'altro, compreso. Senz'altro, senz'altro, oggi per carità, noi, ma chi mi ne succede parecchi voci, ogni tanto ne succedono, ma già ne succede ogni luogo, dice così, è un anno in oca, mi posso poco alla macchina di Cesaraccio, di voi immaginate, domenico, che c'è l'appunto, nuova, era il parcheggio la macchina, la notte era molto fuoco e non si sa se l'abbiamo acciappato oppure no. Ma anche da poco l'abbiamo incendiato una pezza lì su, la macchina chissà se l'abbiamo bruciato questo, solo ha bruciato il blu, la macchina di un poveraccio che era a fianco alla giugna. E va chi se la vedi e se ne fa che nella macchina, chi ha incendiato un buco che dà la macchina e va via vicino. ma tutte le immagini che sta papà si ha di altre cose con Edo con questo paroso che aspetta a fare che ci ripeto che fa una malattia macchine vicino che ha non so che non si può dire buoni fuoco ma come che a volte era isolata la macchina vicino all'alburetti ma questa volta era in fila in mezzo alle altre macchine compreso questa volta era separata da dove ci sono tutte le macchine sotto all'alborello no che qui c'è l'unico punto livello l'ombra deve essere la porta lì se mi la intendi certo ma c'è fatto la sentato cazzo sei un po' malaccio cazzo, magari e le paghetto ancora la ricuscia sì una cucina che c'è nell'altra volta che c'è una cappuccia da fianco era nuova ed è un po' malaccio questa macchina che ve la brucia da tutti e se la sta pagando la macchina quello là loro delinquenti la macchina di Gigione Chiccio è partita da tutto la macchina e se la sta pagando ed è a piedi ma ti immaginate a che punto si arrivando boh oh già l'hanno fatti sempre queste cose e rifatele ancora rifatele però quando fate questi travagli e vi a fuoco vedi quando prendi fuoco senti se era stato più vicino a Rubacone l'avevi addirato io pure se non era la mia la macchina che mi veniva a me ma era troppo distante se no ve l'avevi portata di mano gli vi la bisciuta ma non ci arrivavo da quella distanza già poi si può andare a te dritto non ne fai che si può cose ringraziare ma ci vecchiani che la buona si può a te dritto, capito? La sala appetito, bisogna far uscire, è già appetito, si non guai. Ehi, non mi aveva visto a me, si ve la butto già, e lei non fa me, è vecchia, non va. Già non mi aveva visto, lei era arrivato lo zocco in pieno, ma era troppo distante. Ma non falli niente, fregatene tu magari, se puoi magari dire a qualcuno magari, però a fare ciò che ha detto non conviene, no, grazie a per carità, no, non i fare queste cose, grazie a baccarizzare. No, fa farli vedere, no, chi ci deve servire a avvisarmi, sicuramente la verranno imparato manda a fare ciò che ha fatto. Bisogna pulirsi, siamo andanti, bisogna pulirsi, li bagano e chi di andare a fare chi si deve le vacche, chi si deve dire, capito? E a chi non l'abbiamo bruciato a Buru, al marito di Menebucci, che sta della seconda palazzina, ed era nata la strada, e c'era Doni, e proprio lì si fermarono tra, e chi vede la macchina, tutte le macchine che vedono, sono andate e hanno incendiato la Giulia. La 1 va via, a quando non abitato non verrà venuta che fa. Ma è fresca zucca. Gente mala, gente mala, si acciappa, grazie, gente mala, difettosi, non faccia nessuno. Meglio la ciappalla i saenti, caso sono felice, a chi se ne uno si compromette, hai capito? E da voi sarone già il buro. C'è l'auto già, da poi di un paio di mesi mi l'hanno incarcettato a romare dei meni butti. Allora come ti dirà fatto sopra che si gli altinetti lì per la piazza? A pezzi, l'ha cazzigato pure i beni, l'ha crebato là. Per carità, a che punto siamo arrivati, gatto? Chi l'ha già ammazzato come intericano, si ammazziamo, gatto. E intanto il barone, nonostante la crepatura e l'accuccio che l'ha mandato, non ve l'ha detto. Ha preferito pigliarsi tutti questi colpi, questi fratture, però non ne l'ha detto che l'ha mandato. Hai compreso? A chi ce l'ha fatto male dei nati, uno dei sedusici? Sentate così, e stato sbagliato, magari l'ha avvisato a Dio, io non sta giudito niente, me non sta giudato niente, capito? Non sa che avrà fatto così. Ehi, sta pigliato le cose, ma cose, l'ha pure fratturato. Sì, se no mi rubocca, ne dai nato, l'ammazza, lei l'ammazza indi. E va poi sarebbe al busto 30. Infatti quando lo vedi, ciamba carriera e fuggi buco, corri buco. Anche la dice, distribuire che sta gatta da ammazzo. Ma sento, grazie, 5 minuti. Eia, Tore non si è sentito, Tore ci sei. Ma già rientra subito però, Tore, dai. Vai, tanto mi giro la rolata. Chi è? Ragino, che c'è te? Già Maria si è sentata 2 minuti, aspetta che entro subito. Ehi, cosa c'è? E oggi cosa hai fatto di bello? Tu su che hai fatto tu? Nulla! Ma a me te lo ho mangiato che è stato dottore per farmi fare lo logoso e le ricette per le pastiglie. No, io no, oh, mi sono che ci ha dato un becchisso. Però noi che mi sentia assai bene, mi sono tornato a dormire, mi sono uscito da Londra, sì. Hai fatto bene, hai fatto. Oh, io ti mangiavo, ma tu mi sono dato la glicemia a 70 giri. No, stamane non mi nasce ho fatto, ma che sulina mi nasce qua. C'era nei Londri, mi ho bevuto il tè, mi ho preso le pastiglie. E intanto lo mangiavo in genere, mi nasce basso. E poi me l'ho misurata prima di mangiare, prima di mangiare, faccio mangiarmi le 7 biscottate, 3 biscotti quelli secchi miei, che rimane secchi con lo zucchero. Ma la zucchi, e via via, a 193, 3 biscotti di nuda, piccolini miei. Vuol dire che ci avevano molto zucchero. So che si rimane tutti girati, disegnati, a far palla, ma che sono secchi, mi sono ben zuccherati. Tu sei rassata, un bel ti sei rassata. E a te che tu sei rassata, buonasera. Oh, io sono mangiato, me la sono misurata prima di mezzodì. Ah, per la via 70 G, per la via. A 70 G? E cosa vuoi che sia? Nulla, Sappiamo che ha camminato un pezzo, mangiamo. E poi bisogna anche vedere un po' il tipo della diabete, perché non sono tutti uguali, no? Quindi sono tanti tipi, capito? Per cui magari a te può essere niente, magari a un altro è un altro tipo, magari a 70 G è un beato. Capito? No, in genere 110, 115, quella giusta, però ce l'avevo bassa io, che non ho fatto, ho fatto colazione stamattina, però poi sino alle 11 e mezza non ne ho fatto. Io me l'ho misurata ieri, prima di pranzo, avevo 74, ce l'avevo, sì, 74, 174, c'avevo 174, così che adesso prima di cena me la torno a misurare, vediamo un po', a momenti è alta, a momenti è bassa, boh, ma secondo quello che mangi, capito? Perché io subito sono mangiato il beduva, rubano sempre, e aumenta sempre, capito? La sua voce mi sta stata a 182, se vuoi immaginare, se ti voce era, un mese passato la mia 746, 743, 728, sempre così, e poi si appaga, tu pensi mi sta stendo, anche lì come è troppo uva, capito? Un attimo di bianco, se no non si comprendiamo, capito? Qui Padre Graziano Che ormai è stato mandato la volta che mi ha mandato Luca Manicomio, li vedi sozzo, a beta, a razza di beni, va d'ugna, fare una iata selvatica con i ciugni, tutti va ridotti. Arrivi da vai, da voi me l'ha mai detto. Davvero, grazie al detto facile, gatta, bisogna appiccapire con un macete questo dito, gatta. È detto facile, gatta. Sì. vabbè, andiamo così. Ah, se ti avessi entrato Battisio, attenzione Battisio. Sono pronto per voi, buonasera. Fammi indovinando oggi allora che eri in accorto. Anda, sta aggiustando il microfono. No, un amplificatore sono piantato. Andiamo a vedere. Vabbè da, riprendi Giamari. Cos'è che fai? Cos'è se ti affendi? Amplificatore. Mi raccomando, fallo bene il lavoro però, Buonasera comunque, mi hai sentito? Lavora! Non lavora, non fa l'amore! L'uomo della campagna! Zappato hai! Sicuro, Graziano! Meglio così! Ma te immagini che a razza di beni vecchi va Luca! Aspetta, adesso me lo guardo, riprendito! Mi non sta succiami! Certo che andiamo, Giulia. Però se non li conosci di Naglia, tagliasse i lunghi, io vivo a Gesù, a Tore. Regala via allora. Capita, da spavento, vabbè ma metto. La buona anima di... ha detto quando si chiamava, stravagliava all'entrata del campo santo. Avevamo messo il soprannome e il nome no, lo chiamava il dottor Oddo, a chi era barbuciente. Allora chi ci va via, tu la vedavi bene e va via, in punta, la volta buccata che mi diceva, l'ugna di un bollice di un bene, dalla volta. Allora se la mandrò a tagliarci lui. Ve l'ha giusto, ma anche non se ne dà gli lunghi, questa è la volta buccata, vai, vai l'ugna buona, ogni schifo. Non vorrei dire, se sei tra 30 ti ribasso un poco la circolare o la segannata, se ne taglio tutti i rubini. Figuriamoci in che condizioni erano gli altri. Carità che schifo. No, Uia. Io mi tengo troppo bene, tengo cazzo. Alla buona, mi sono fatto male sopra, ho sentito troppo di volte. No, io mi ripongo a moglie, mi ritaglio, a me mi dice che faccio di bene da signorina, a me da vedere, faccio tutti i diritti dritti, lungi sempre bene composte, giuste, tagliate. Me ne davo un milione di bigno e allora no, a me mi si deve tenersi gonfiati appena dare il bigno, ti soffendi male, ti soffendi, e sopra mi sono fermato, mi allaccio, in chi mi duri. E noi papi, il laccio troppo stretto, chi ce lo fate quando fate i posti stretti? Tu devi avere la capo, culeno, rugannai, io non è che me lo stringo forte, no? Quando mi metto quelle rugannai, se no il fiuso, le scarpe quelle a strappo, che sono meglio, non stai lì a nuda. A me non piace, a me non piace di così, andare, ma se io ti usiamo cassini buro, andare, e vabbè, che vai adesso così di adesso. Hai detto a vedere, e allora già bacchi finita avremmo. E vabbè, in pasticcelli. No, io ho la scarpa da tennis, io ho fatto il nodo doppio e le ho lasciate che non vedi più curecchio a 30. Infatti, quando me ne pongo non risciuglio, mi rinfino così. E tra gli scegli. La borsa è giunta. Signor Bacchi, allora, finito avremmo. E non rispondono. Ma oggi mi ho mangiato a pranzo, ero da un bel. Quella pasta fresca, tipo farfalline, ci sta attorcigliata. Però al pesto alla genovese, certo, allora mi ha fatto così. Quattro volte in bagno sono entrato, allora non ne mangio più. Ma il pesto ti ha fatto così, è l'olio, E l'olio che c'era in quei così, quelle bacchette rotonde che vendono alle rossi. Invece voglio il barattolino, in genere voglio il barattolino, invece ho preso quello, a che più manizio ce n'è di più, perché secondo me passa, fai quel barattolino là non basta, allora dici, beh va più vicino, e mi, Andavei. Facciamo bagno a tanto. Luca, ma si vedi di giù. Magna, Ti piace. E una tenni a tagliarti i runni, la gesuia. Tu abbiamo più l'occhio. Un bruciatore, tipo. Capita, chi mi deve passare da Giulio, il falegname lì è partita. Una passata era circolare o una sega a nastro. No, gru, una moletta, entriamo. E mi ricordo voi, Luca, te ne date una moletta. Ciao Antonio, ciao, sai che c'è anche Bacchiglio, avanti Bacchiglio. Ciao Luca, buonasera, viene scocciato. Allora, criticando stanno Luca. Vai, sta cognoso, non può rispondere. Ma gli è da abbassare forno. Peccato, il novaggio rinuma, l'hai guardato quello che ti ho mandato? Te l'avevo mandato Giammari, chi ci dice mangiare i vermicelli? No, lei dice che me ne manda, se no non mangio il saluto. E l'altra, una che mangia i vermicelli, chi ci rotondi, vede grasso stelle. L'altra se mangia in avano si comprende, ci sono gli atturini o cagnolini minoriti. E un'altra ancora se mangia i risorigisti. Che schifo, e la beppe è un chef, ha preparato un vasoio e ha portato tutti i vermicelli niti. Chi si caccia la dire subito, cazzo, non abbattavi queste cose, che ti fate a droga di pazza, non... caccia la dire subito. E chi, ma non ve la giuro il numero, se no a Bacchiglio ve l'aveva mandata a vedere, eppure a Tore. No, questa firmare, non li mandava nessuno di queste cose, ma Tore, se no te lo mangio se ti manda questa cosa. No, te ne dici, una gioia troppo di roba. Infatti pure con Luca mi abbia mandato un po' di cosa e mi ha sciarrato. A Luca mi ha mandato, così di base briscendo, se no è una testa graviglia. Allora c'è Bacchi. Avanti c'è Bacchi, cosa che rifai in ansura, cosa li travagliamo? Pasticciando stavo, c'era un applicatore aperto, lo stavo chiudendo. Mi sono rompito le case e la giù buttano a bassa qua. capito? Mi sono ribellato con quei vizi, dovevo entrare, dunque, niente da fare, riposa, quando riposai c'è la 20. Ma allora riposa, allora tranquillo, Bacchì, a Puitedini. Non ti preoccupare, Puitedini, Bacchì. Sì, piano piano. È così. Aspetta, sono andati gli agganci. Oh, stamattina ero dal medico, sono sceso quasi alle 11.20, sono arrivato a casa. Poi ho preso, mi sono misurato la glicemia a vedere. E poi mi ho mangiato qualcosa e ho portato a lui il cane a fare il giro suo. Però non ho fatto nulla. Questa sera ho portato mio nipote al campo e non ha giocato nulla. È abbandonato in città. Vabbè, grazie a ripresa, c'è nessun altro, una donna santa. Sta ripreso dopo. Ehi, così è. E allora, cosa abbiamo zappittato? Bacchi. Niente, zappittavo oggi, grazie a... Ha già buttato la rima dentro le sacche e si è buttata la mozzina. Al murino se l'è buttata. La mura l'ha portata. Ah, sto facendo le spine. Cosa veloce, ben fatta. Ehi, hai fatto qui. Così. Vabbè. Riprendi, Torre. Mi hai capito, Bacchì, mi hai giocato nulla oggi, nulla che nulla, e forse la prossima settimana le provo, se tutto andava. Ehi, forse giù la pioggia, domani ci abbiamo pioggia, domani sera e via discorrendo, prossima settimana acqua. Sì, c'è bisogno di un paese. E dopo se non ne sappiamo fare l'acqua, così è grazie a... Cosa? Se lui fa acqua, noi apriamo l'ombrello. A che domani è, Pappo? Buonasera. No, non ho visto oggi di meteo. Buonasera, ci abbiamo l'acqua. Da domani inizia, domenica è lo stesso sporco. La capivo. Fino alla fine beva! E più vado a terra, Sattia, giusto, possiamo usare col coltivatore. E non penso. Sattia, rubi le parole, che mentre voce è più nel tiro. E allora, guarda che di Dio oggi si sta di avermi, è la sera che fa un po' di brecchito, però di giorno si sta bene, i ruretti io faccio ancora le insoli vini, un plebe fine sopra, e si sta di bene. Ehi, non ho coperto la sera, sopra ancora. No, tutta la sera in maglietta maniche corte. Verso il zinco di un quarto, poi ho cominciato a tenere scorretta a fare meno naso, ho detto buon pacco, qui c'è tutto, se ne a chi ti nabbisci subito quando sei cominciato a ciambare, al sole lì nel terrazzo stava un bel bene, solo quando comincia a andare nel rosore allora senti già quel fraschetto. Vero, Dore? Da lunedì comincia ancora prima, se fa buio prima da lunedì. Vabbè, ma intanto lo tempo è pure, ma con dei nabiti che c'è in primavera, Tore, ma se sono pure anni, l'anni, non i mesi, no, l'anni. Non sai che volano adesso gli anni, ma c'è un momento in nulla. E allora, è come te, il mio ex principale, ma dici una di... ma grazie a Matti quanti anni ci sei? E io 18 anni e mezzo, dunque prepari già la liquidazione, che mi deve andare. Tu cosa ti ha detto? Subito. Ma Ah, che non ci credo che ci sei 18 anni e mezzo. Ah, non me la metto, la giudizio, la ratta che ci sono entrate, anche io la sono entrate, è un travaglio che mi ha portato qua la prima di. Che subito subito sono cassato dalla fra perché la giù fatta, ascolti, se è per lavorare che gli serve sottoterra lì, io me ne sto già andando. Me la metto ancora a che barare, anche io non sono qui a travagliare sottoterra. Dunque, dice no, no, è solo per oggi, a chi me la vieni subito. Ha compreso Pacchi? Pacchi! Ehi, si è staccato più con l'alimentazione. Ogni poco si ne brinca da sola. E lei ha rubato un lucchetto. Sì, ha rubato da voi, a vedere. Da che fino, cioè, se mi dice, un liscio spinotto. Da parte della carne, leggermente le cose, le lamelle, e non esce più. Beh, se no ti dici, lui li mette si dentro a puzza e a te danni gli buca a puzza perché gli aveva allargato la lamella che prima gli curava troppo e un po' di volte si puzzava l'alimentatore in scia e allora l'ho allargato appena già vanno bene adesso. Compreso il sole e subito è andato in ufficio a controllare se era vero. Io che vedo tutti che sanno, al computer. Quando è così, tutto, tu sei ben rimasto male. Cosa ti sei staccato, Bacchì, il filo dell'alimentazione? Sì, secondo come si muove, si stacca. Non ce l'hai nuovo, nuovo non ce l'hai, glielo metti nuovo, soldato è attaccato al coso, attaccato alla, alla scheda, ho attaccato l'uscita. Ave Maria, il palizzo. No, è giunto agli enti, e si è assentato. E Luca, ma come, Luca? Si sarà tagliando i lumi. Allora farà da pigliarsi la molesta, sicuramente. A chi vive cosa? L'Italia o la Gesuia, la Trocchesa. Chi la bega dove dai lunghi vieni burumane a tagliare, se ne va di sci la gugliuffa. Invece quando sono già corte, basta di buone libere a moglie, mezz'oretta, nei buchi, ti lasciuti, allora taglia subito subito, perché le ammorbidisce. Andiamo bene, andiamo. E allora, sapete secondo un panino, la boccaccia, e magna pa, boccaccia e ugni, Luca! Sì, filmino che mi hai mandato, che con gusto proprio, con passione si la mangiano in sta buccaria, brutti animali, non te la faccio in bocca, chissano, pucci, amore. E chi è? Mi chissà, mi ha detto se vuoi darle un bacio. Che doccia, Bacchì? Bacchì, se vuoi un poco di colla, attacca. Oggi sono tutti curibusi, c'è tre fuggi, a te la tu se muoio bene, o a nascondino. Pare lo io con il giappo, ando via. Domani mi voglio assicciare un poco di dati, farà giorno e faccio le sfide nel muretto. Ma con i sani cosa vuol dire? Chi si gioca di oggi? Chi si basta a tempo? Attiramente, dove? Con i dati. Ah, assicciare i dati. Attiramente quando si giocava con i dati. Chi giocava a piattino, le buone uno dritto appoggiato a un muro e con la mano lanciava l'altro piattino e ne lo dovevi lampare. Però c'erano le scommesse, c'erano messi 10 lire, 5 lire, 20 lire. Ma le giovani di oggi non conoscono nulla, non conoscono. O se no, con i gatti, o le figurine, a buffa, l'angolo di riserrante. ristorante di Ruta Bacchino da signor Renzo. E i ghibi. Appone ogni tutto va ridotto. Certo, sta posto della musica, vedo, deve essere soldato questo. E lo sai, a me pare là una fanfara militare, ma non si comprende niente. Tutto graziante, pare a un aino ragliente. Allora faccio accostare nel cofano prima, era tutto un po' ciumare. Mi pare da mettere pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Certo, andiamo e andiamo. Deve essere proprio là, la bella, la bacchetta, cabingiotto, questo musicista. Grazie. Ah? Appassava? No. C'è un bocio importante, ma non intendillo. Aspetta, è tutto un bocio male, non si intende nulla. Ah, ma come si abbuccia il microfono come ti si devi? Aspetta, esce tutto distorto. No. Non si comprende nulla, c'è tutta frutti, tutte scratti. No, non funziona bene il microfono. Troppo vicino. Sì, boh, andate. Signor musicista, guardi che non sta uscendo bene, lo vogliamo sentire più bene. Grazie. Luca! Luca se può prendere lunghi. Se ce la siete lasciati di duro. Sicuramente, fa come tirare i confusi. E che vi vogliamo bella attenzione. Dai, non deve darsi fascista, deve darsi immigrazia. Grazie, deve darsi fascista. E allora, faccia sta nera, bella vicina, aspetta. Bubu, aspetta, andiamo. Dai. Bacchi! Oh, Bacchi si è separato 30 anni, si è alimentatori. Oh, yeah! Bacchi si è caduto, sì! Sì, dai! E Luca Barato, c'è Luca! Ah, sì! Bobo! Oh, yeah! Sta andando e peggiorando questa 27, però, non si intende più nessuno. L'altro giorno l'ho acceso, anche sul 10, sul 5, non vedo un cane, ne ha distaccato se la giornata da rimuovere. Vabbè, ma tu se ne mai di troppo destra. Ero mezz'ora, gli la destra, gli la sinistra. Che bocce buru! Lo so dire che va a girare subito il canale. Ma con cane! Tutti morti, oramai. Ma Manzano a sera? Sì, Manzano, in genere era Manzano che ha che cane vera, prima. Ma cucucciucci intende. Autisti non ha più indizio, manco l'anima. Tutti hanno mollato gambe e tutti da andare in bocca, tutti cucci. Hanno mollato canto e per carità, lo sapete cosa pensate, lo Stato, banca cittadina, ha arruinato un bel niente. Purtroppo. Da noi sta gente entra nel giro 26, non vedi voci. No, l'altro giorno l'ho messo sul 45, già ce n'erano sul 45, continentali. Sa di nulla, continentali sì. E niente, però gente sarda, come li sentivo qui a Predaneta, Romanzane, i cagliaritani che venivano a scaricare alla Bricome, al supermercato, non ne ho più sentito, oh, i cagliaritani, però padroncini, qualcheduno che c'ha, che con qualche ditta grossa già lo sento, qualche volta l'andove, però come padroncini, non esistono più. Perché sono tutti morti. A chi ha nulla duduta, chi fa la passetta, va dei baiti di cucce, bivoni di dinà, non hai compreso. E dunque capito quasi va, Luca Solio è alle stelle, li viaggi ti ripagano da molti di fame, e più ti ripagano tutti i dazi, e come ti vai a capo? Luca, Luca. Ok, dai. Ci siamo a Totò. Ho aggiustato? Ehi, mi è uscito troppo largo e non riuscivo a infilare lo spinotto. Allora dovevo cercare una pinzetta sottile a becco per tornare a stringere, è un casino. Dove lo dovevi mettere? Dentro nel coso? Non va alla scheda? Questo è, c'è la limitazione che si può staccare dietro. Dunque col capetto ci giocava, a tre polie, a quattro polie, due sono in corrente e due no. E dunque quelli due in corrente li ho allargati leggermente, li ho allargati troppo che non entrava più nel buco, si è piegata la lamella, dopo è dovuto addrizzarla per farlo entrare, se no non entrava. C'è un'alimentazione da dietro anche. Allora, è un casino questo, che tu arachino. Vanno in debatta. No, non deve andare. Va benissimo. Ehi, beh ragazzi, io chiudo, là. Ce la sentiamo domani se coincide. Ciao, Marchisio. Ciao, Tore. Ciao, che in ascolto. Saluto a tutta la ruota, anche ai morti. Vai Tore, aspetto il finalino e chiudo. Ciao! Sì, ok, ciao, grazie, ci sentiamo alle prossime. Andate, riprendi il macchino. Sicuro che riprendo io, ciao Graziano, buona serata, buon pomeriggio, buona cena. Saluta anche a Paoletta, anche per lei la stessa cosa. A domani se tutto coincide, grazie, buonanotte. Ricambiato, ciao! Ciao, grazie. Quindi l'hai aggiustato bene il bacio? Adesso sembra di sì, perché ogni volta abbassavo il microfono, la vibrazione dell'altoparlante faceva staccare il filo. Era troppo facile a uscire, scorreva troppo. Oh, quindi è a posto adesso. Apostrofo, adesso l'ho messo apostrofo. Marino, ha detto che accendeva stasera, ma non va. Mi sa che è ancora dagli indietro. Ma che fischiente ha detto? Sei che andiamo a muovere. Dottor Marino? Qualche bassogno? Senta, bubù. Ehi, vabbè. Come dorme, Marino, dorme. Dimmi una cosa, ma lo spinotto qual è? Quello degli autoparlanti o quello dell'alimentazione? L'alimentazione? Si nota 4, c'è 4 fuori, c'è. 2 sono in corrente e 2 sono in negativo. E dove vanno inseriti? Dietro all'apparato, c'è dietro c'è il maschio, capito? Dietro c'è il maschio, tu lo stacchi e ci rimane il maschio. E quello che secondo, le lamelle, ci sono consumate, come parlavi ne saltava fuori. Vabbè dai, io ero in stand-by, ero al computer, adesso vi saluto, dai, buona serata e buona serata. buonasera quando la fa. Ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao, riprendi Marco. Ciao Luca, buona serata, buona passeggiata, buon tutto. A domani se coincide, buon divertimento ancora. Hai capito, Tom? Sono allargate un po'. Troppo mi è uscito allargandole e non voleva entrare. Perché si è piegata la lamella. Allora con la pinzetta a becco, piano piano, non è posso in sesto. Fatto bene allora. Fatto bene. Meglio così. Se no domani andavo da Fusaro e compravo un maschio e una femmina e li ho cambiato. Perché se rivendono quelli lì, vengono giamballi. Perché fissato con due viti, questo cavo di falsetta. Se la lunga 2,5 cm, per 1 cm d'altezza, della femmina. Ma serve per dare corrente all'apparato. Sì, l'alimentazione viene da lì. Tu lo stacchi fino all'uniaio e attaccato all'apparato, capito? Rimane pulito, senza il piede in giro. Ho compreso. No, io invece ce li ho in plastica, i cosi di corrente, che si attaccano. Ho capito, no. Come quello del Kingo, quando lo stacchi tu, ti rimane pulito, ti rimane solo l'eccezione del maschio attaccato alla radio, e la femmina è sul capo. Così. Rimane così, anche l'intake che c'avevo rimaneva a spinotto lo stesso. Quindi i giri invece quello che c'è tu ci rimane lo spinotto diverso. Invece i nubi sono direttamente uscita sul capo. Ma è stato modificato come cose, se no ce l'aveva in plastica, ce l'aveva. Allora, è originale così. Originale così come. E cioè è plastica, sì. Però è sempre prodotto la plastica dura. L'ho preso. Anda, beh, anda. C'è un casino in questa cosa, situazione. C'è poco la roba montolata. Andò bene, andò, bevo. Però finì tutto da fare, queste qui, queste là, lampada, diavoli, radio. Domani ci butto un po' di roba, domani mi porto su una cassetta, poco tutto dentro, che se non serve il lampo. Di conveni, sono un po' di pulizia. Ma che non ti stai a mucchiare, devi può servire, ma la lampada di tutto, non me la fate più nuda. Usa quella roba che c'ho davanti, che sto usando, poi basta, l'altra io, avviate. Uno me lo porto in campagna domani, e lo lascio in campagna, per quando testerò qualcosa. Infatti, come va così, come va, fuori tutta una base, lasciare un po' libero. Infatti, l'alimentatore c'è in più, c'è un alimentatore da 5 ampere, poi lo porto in campagna. Un po' di cose, di ordine voglio fare, capito? Infatti, fa un po' di ordine e ti lascio quello che ti serve solo. Stavare questi capi che sono in giro, o per un lavoro, fare la marcia e mi dai i piedi. Troppo casino, c'è, troppo. Domani si vedrà. Io volevo tutto quanto a base e portartene in campagna a pulire una base. In campagna quello che serve, l'altro è un lampo. Ci sono microfoni che non funzionano. Cosa cavolo ne fai? Lasciate me, intanto la tarde non vanno bene. Buttacelo. Ho visto per quello che costano. Conviene ordinarlo nuovo. Faccio. Ma sai che il microfono di quello ultimo che hai comprato, c'è la capsula piccolina. Sì, c'è la capsula piccolina con quella farina gialla dentro, non so quello che cavolo sia. Nella cosa lo stavo guardando, l'ho visto nel tablet, l'ho visto, lo stavo guardando a vedere com'era. È da 600 ohm. Non so, non c'è scritto niente. So che non si può togliere perché l'hanno piazzata con la colla accanto, l'hanno tutta piena di collo accanto, per toglierlo devi rompere il frontalino del microfono. No, oh, già si può togliere, sì. Ho visto io che la stavano cambiando la capsula. Erano i giambelli. Hanno scaldato il pezzo della plastica piano piano, senza asciuglirla. E ne hanno gavato. Io l'avevo smontato. Ho trovato su questo qua. Solo che l'ho fatto. Con il microfono staccato il pini, ma ho usato la carcassa di quello lì per parlare, perché non usciva la capsula. Ma c'è anche il posto, io ho visto che nel coro c'era il posto per anche per la capsula grande. Adesso domani lo apro e ne ho tolgo e faccio il lavoro che ho fatto ieri. La piazza su questo microfono a vedere un po', ma se migliora o peggiora. Quale? Quella di quell'altro microfono nuovo? Ia, quello delle Midland. Ma dovresti trovare un pezzo di cosa per attaccarlo in mezzo, in quello da tavolo, nell'MP4. Ia, ma metterlo nell'MP4. Devi provare, devi, e poi devi trovare una cosa per tenerla ferma. No, basta metterci gomma piuma, riempire di gomma piuma l'apparato. E cosa ci potresti mettere? Un pezzo di polistirolo, di quello duro. Ok, un pezzo di polistirolo duro, gli fai il buco e rimane con ferma, forse è più perfetto. Infatti, e poi una retina ci devi mettere davanti. C'è la retina, uso una retina di questo microfono qua, di questo capsula qua, ne tolgo lei e ci metto l'altra. Prova a vedere se funziona. Domani sera quando salgo, pur dopo il mezzogiorno, quando salgo la campagna, nel frattempo sta a preparare il pranzo, smonto e monto. Infatti, devi fare così, devi fare, almeno così. Se funziona bene, più chiara di questa qua. Vediamo, solo che questo qua lo voglio mettere nella radio nuova. Ma il microfono da tavolo? Vediamo, lo voglio sistemare lì. Solo che mettendolo adesso esce riportante. Perché esce riportante? Perché non è il suo attacco. Devi cercare, vedere come sono. Devi cercare. Io il microfono che ho io l'ho provato io in quello nuovo e funziona. Funziona bene. No, questo no, questo. Nada. Esce a fischi. A fischi è portante. Allora devi guardare come sono i fili piazzati. Aprire, fare, capito? Smontarlo e via. Aprire il microfono, il finotto. Io ho il coso segnato, Bacchi. Ce l'ho segnato in un foglietto rosso, nel suo originale ZG. Questo è blu, bisogna vedere un po' com'è. Se vuoi te lo do, ti faccio la fotocopia. La fotocopia, adesso te lo faccio sentire. Adesso lo sto cambiando. Un attimino che cambio da qui a là. Eia, Bacchi, sì che ti sento, basso ma ti sento. Sì, adesso? Adesso sei giusto. La relazione com'è? È buona. È nuovo, l'altro giorno mi è riuscito di portare, oggi esce bene, forse l'alimentazione non le piaceva. Deve essere l'alimentazione che non andava, che non ce la faceva e ti dava del coso. Sta uscendo bene, stai uscendo. Uscendo bene, fino è chiaro. Bacchi, ma è sul nuovo lo stai provando, sì. È sul nuovo, sulla radio nuova. Cioè è buona come modulazione, aspetta che sollevo. Ecco qua, prova a vedere. Io provo 2, 3, 5, 20. Sì, sì, no, è già buona come modulazione, perché ho sollevato un po' il volume. Come segnale più basso? No, c'è sempre 9.30. Qui siamo vicini. Ho visto. No. Sono arrivato al tuo No, allora era l'alimentazione che non ce la faceva e te lo portava così fuori. No, niente, no. Mi ha disegnato il lavoro. Mi ah, già va bene come cosa. Più che altro, un po' di a provare a metterci con la capsula più piccola, per se va, se esce più chiara. Perché le sue originali sono piccole però sono appena più lunghette. Sono cacciolina perché io questo microfono l'ho prestato e me l'ho trovato a fine. Ci mancava la capsula dentro, ci mancava la vestita, ci mancava tutto. E quindi giù dentro, staccato. Non chissà cosa stavo cercando di fare. Ora vi ho a capo io, che là da duro ci vedete in montagnino oggi compreso. Se non funzionava, devo ritornare indietro, c'è un capo di mio. E poi sono come ne pensando più di roba là. Infatti, chi te la puoi dire adorare tutta la fasciata? Che non deve adorare la fasciata, se no che ne dava venuta. Il microfono in salvezza, mi ha prestato, non so chi lo va. Vedi. È una cosa brutta. C'è una cosa, che ho messo quello che abbiamo fatto. Ce l'ha usato, ce l'ha detto. Vabbè, dai, Bacchia, ci sentiamo domani, ci sentiamo. Dottore, anche per me, è domata l'ora. Ciao Tore, salutissimi, ci sentiamo domani, sotto la signora e compagnia. A domani, ciao, buonanotte. Ok, ciao Bacchi.